Le 14 in punto, giovedì 2 luglio del 2009, 87.900, la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa. Ben trovati e ben trovate, visionari, come ogni giovedì dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni per quanto riguarda la trasmissione potete trovarle sul sito della radio www.ondarossa.info con l'indirizzo in dove riascoltare la puntata precedente, gli ospiti di questa settimana, le uscite del weekend cinematografico e poi e via discorrendo, andate a dare un'occhiata. Allora, cominciamo subito con i collegamenti, anche quest'oggi numerosi, parleremo di film ma anche di festival. Siamo al telefono con Rita Ciccone, la regista del prossimo tuo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, ciao. Come stai? Bene, grazie. Allora, parliamo intanto di questa uscita. Tu presentandolo il film dicevi insomma che la data non è il massimo, però insomma già il fatto che il film esce nelle sale insomma è comunque un risultato, visto che si tratta di una piccola produzione. Sì, infatti è una coproduzione tripartita con Finlandia e Francia, ma diciamo la produzione italiana, che è la produzione insomma di riferimento, è una produzione indipendente, quindi insomma un po' pagato lo scotto che finisco sempre a pagare diciamo le produzioni più piccole, sì. E i registi meno noti, per cui insomma alla fine, anzi, sono stata contenta perché molto spesso dei miei colleghi con dei film validissimi non escono affatto nelle sale, per cui sì. È già tanto che si riesca a poter mostrare il proprio lavoro in pubblico, insomma. Senti, per chi è all'ascolto, ce lo descrivi un attimo, ce ne parli? Dunque, il prossimo tuo è una storia che diciamo parla del nostro rapporto con gli altri, una storia sul pregiudizio, no? Sul sospetto, sì. che abbiamo verso gli altri, soprattutto quando nella vita abbiamo subito una violenza, no? Quindi io, partendo da un impianto generale in cui subito dopo l'attentato di Madrid l'Europa è scossa insomma da questo terrorismo internazionale che arriva in casa nostra, ci sono tre personaggi che per ragioni loro, perché hanno subito una violenza, stanno facendo l'assurdo tentativo di vivere senza gli altri, no? Di isolarsi, sì, completamente, sì, dagli altri per non rischiare appunto un rapporto, no? Le conseguenze di un rapporto. Questi tre personaggi, diciamo, l'idea di base era che fossero collegati in tre grandi città europee, cioè sono Helsinki, Parigi e Roma, e quindi queste tre storie diciamo che corrono parallelamente tra Helsinki, Parigi e Roma, quindi è un film girato itinerante per l'Europa con attori di tre diverse nazionalità, è parlato in tre lingue e appunto volevo mostrare come poi, nonostante le differenze apparenti culturali, persino di lingua, poi alla fine nel sentire siamo assolutamente identici. Allora, in un contesto allargato si parla di guerra, di terrorismo internazionale, ma anche della violenza che è presente in ogni società a tutti i livelli. Beh, sai, il mondo poi alla fine è la scena del rischio, nel senso che l'essere umano è allo stesso tempo Mozart e poi Barba Blu, insomma, voglio dire, diciamo la violenza, credo si parla molto del fatto che questa è un'epoca violenta, però se ci si pensa nel Medioevo si facevano a fettine, sì. Vuol dire l'essere umano ha purtroppo una parte profondamente violenta che è appunto quella prevaricatrice. Il problema è che non si può, per evitare questo, non aver fiducia di nessuno e vivere senza relazioni, perché l'uomo comunque è un animale sociale. Infatti quello a cui il film approda è l'idea che comunque forse è l'altro che può portare la violenza, lo shock, il trauma nella nostra vita, ma è l'altro che anche quello che ce ne dirà anche fuori, no? Nel senso che solo da una relazione, da una rete di relazioni, poi noi possiamo, insomma, definire umana la nostra vita, no? Certo. Senti, come hai lavorato sul testo, a partire da cosa e poi come si è sviluppato il progetto? Dunque, io ho avuto questa idea, ho scritto il soggetto nel 2004, proprio subito dopo l'attentato di Madrid, perché andavo in giro col treno per tutta Italia a presentare il film, il mio precedente film, L'amore di Maria, e era venuta questa idea perché appunto mi aveva fatto sorridere il fatto che dopo questo evento così drammatico, per sedare la paura, no? Anche perché, insomma, devo dire, nel nostro paese questa idea di una strategia della paura e del terrore funziona molto politicamente, no? Sì. Allora, sì. Con l'apparente scopo di sedare questa paura, insomma, era un continuo controllo della polizia a quasi tutte le stazioni, sì, controllo di stranieri, insomma, mi faceva un po' sorridere perché ho detto, beh, cioè, non è proprio questa la soluzione, no? Mi è venuto in mente appunto di scrivere questa, ho immaginato un'Europa brulicante, no? Insomma, mi è venuto in mente di scrivere una storia così, da un respiro ampio, una storia europea. Sì. Poi è successo che, siccome L'amore di Mario è uscito in Finlandia, è andato bene, è stato molto amato, insomma, e la produzione che aveva distribuito, perché è anche una grande distribuzione scandinava, aveva distribuito L'amore di Mario, mi ha proposto di fare un film tutto con loro. Sì. E io ho controproposto una coproduzione, gli ho parlato di questa storia, loro è piaciuta molto, e diciamo è da lì che è partita poi l'idea. Poi appunto Francesco Torelli in Italia ha cercato i finanziamenti con enormi difficoltà, e poi abbiamo trovato una piccola coproduzione francese che hanno, insomma, seguito la parte francese, dove è stata molto peregrinosa la produzione di questo film, purtroppo devo dire, per le difficoltà che abbiamo incontrato soprattutto in Italia, quindi io ci ho messo praticamente 2 anni e mezzo a girare questo film. 2 anni e mezzo. Senti, soddisfatta del risultato? Sì, sono soddisfatta, sono contenta, insomma, sono contenta anche, diciamo, della reazione che ho visto che ha. Sì. La gente che lo vede, reazione che appunto è senza vie di mezzo, nel senso che siccome io non vorrei mai nella vita fare un film carino, perché sai, uscire dal cinema e sentire beh carino, per me è peggio che sentir dire orrendo, o comunque che, insomma, secondo me un film o un romanzo riuscito quando riesce, sì, comunque veramente a scuoterti al profondo, quindi sì, che o sei totalmente dalla parte di quel film o lo detesti, meglio quello che sentirsi dire che hai fatto un film carino, no? e poi devo dire che siccome c'è stato molto molto lavoro dietro, soprattutto di preparazione con gli attori, poi ho una bellissima troupe, ho lavorato con 3 grandi direttori della fotografia, insomma, e un grande scenografo, un grande musicista, insomma, ho avuto delle persone di enorme esperienza che hanno aderito a un progetto comunque indipendente, comunque, sì, insomma, piccolo, dandomi una grossa qualità, insomma, quindi penso che la qualità del film sia, sì, innegabile. Oh, diciamo che 3 direttori della fotografia per i 3 diversi ambiti, sì, in cui ogni hai girato. Ogni storia ha un direttore della, sì, fotografia diverso. Sì, sì, sì. Oh, se non ricordo male, mi avevi detto che il film usciva in 7 copie, e ti chiedo, sì, visto che è uscito da un paio di settimane, come è andato e a copie in che situazione siamo? Ma guarda, noi la prima settimana abbiamo avuto la quarta media copia. Uh-huh. Adesso non so bene cosa è successo questa settimana, però appunto mi diceva Francesco che sta andando bene, cioè la media copia è buona, l'affluenza c'è ed è in aumento soprattutto a Torino e a Roma, l'Intrastevere, no? Uh-huh. Adesso queste 7 copie, che credo non diventeranno più di una decina, anche per una questione che la produzione ha tutto a carico copie e lancio, non abbiamo avuto alcun finanziamento per copie e lancio da parte del ministero, insomma, quello che è, e quindi diciamo che queste copie che ci sono sono anche dovute al fatto che, insomma, uno stampa quelle che può, perché questo la gente le volte non lo pensa, no? Mm-hmm. Stampare una copia costa, quindi non è che esci in 300 copie, non è solo che perché c'è il monopolio e l'invasione totale di certi film per le logiche distributive che ci spalmano certi film in 500 copie, dobbiamo quasi subirli, no? C'è anche la questione che possono permettersi di stamparle queste copie. Allora, insomma, le copie che ci sono circoleranno, credo fino alla fine dell'estate, cominceranno a girare per tutte le varie città, cioè nel senso che faranno staffetta. Ho capito. Invece che uscire contemporaneamente. Poi, sì, forse per un film, sì, del genere è anche meglio, perché così si ha il tempo del passaparola, a vedere se funziona. Una specie, no, di tour. Sì, la tournée del prossimo tour. Senti, Annarita, tu fai parte anche di 100 autori, sì, a questo punto, considerato anche che qualche giorno fa c'è stato un incontro, ne avevamo anche parlato con te, sì, ti chiedo com'è la situazione, quali saranno le prossime mosse da qui all'autunno. Dunque, io faccio parte, insomma, sono molto contenta sia di far parte del direttivo, no? Sono stata eletta per i prossimi 2 anni, insomma, con siamo in 10 più i comitati, insomma, le persone che stanno nel direttivo. Sì. E devo dire che ci ritroviamo a essere il primo direttivo dell'associazione, che l'associazione è stata fondata, insomma, da poco, ottobre, insomma. E parte dal movimento dei 100 autori che in 2 anni appunto ha avuto un'attività, una vita movimentista. Alla fine abbiamo deciso di fondare questa associazione, che è la prima associazione che riunisce registi e sceneggiatori sia di cinema che di televisione, per cui insomma abbiamo unito le forze in questo senso, e ovviamente mettendo al centro del discorso intanto un recupero del rispetto dell'autore, perché ultimamente abbiamo avuto un po' la sensazione che il cinema, anche la televisione, vengano fatti un po' troppo sopra le nostre teste, perché poi alla fine io dico sempre, questo è un mio pensiero personale, se domani tutti gli autori si svegliassero e dicessero che sono stanchi di essere sia usati che in qualche modo, no, cavalcati per interessi altrui, sì, si rompessero le scatole e decidessero improvvisamente tutti di non scrivere più, non girare più, voglio vedere insomma tutta sta baracca dove andrà a finire, no? Quindi anche rispetto proprio della nostra ogni tanto d'autore. Hollywood succede, e infatti sì, è infatti la nostra direzione in questo momento, proprio perché sono, è qualche mese che abbiamo appena fatto l'assemblea nazionale in cui abbiamo riferito, quello abbiamo fatto nei primi 3 mesi, insomma, no? Essendo che ci siamo tra l'altro ritrovati forse nella situazione più difficile degli ultimi anni, perché non so se sai, notizia degli ultimi giorni che è stato praticamente tagliato il FUS, cioè purtroppo con questo governo parlare di cinema in senso di cultura e non solo intrattenimento è proprio come se andassimo, capito, tra gli aborigeni e fargli vedere come funziona la navicella spaziale, e quindi è molto molto complicato far capire che il cinema sia come intrattenimento che come cultura, perché non è che uno si deve forza rompere le palle al cinema, no? è importante in quanto investimento proprio per quello che riguarda sia la formazione della mente umana, sia la sua il suo diritto alla distrazione, sia il suo diritto alla bellezza, cioè quello che noi stiamo cercando di mettere proprio al centro è il diritto dello spettatore, no? E dunque adesso abbiamo appena fatto un convegno che è andato benissimo qualche settimana fa sulla questione appunto della distribuzione, che appunto Gianfranco Gianni e Mario Balsamo e Maurizio Sciarra dei 100 autori hanno organizzato questo convegno bellissimo in cui sono venuti per la prima volta, abbiamo riunito distributori, autori ed esercenti sulla questione appunto che va un attimino diversificato, reso un po' più libero quello che è appunto il mercato distributivo, perché la gente ha diritto a mangiare non solo pasta al pomodoro e scaloppini al limone tutti i giorni, cioè la gente ha diritto a poter scegliere fra vari prodotti, no? Quindi ci sono dei film magari che possono essere considerati difficili o particolari, che però hanno un loro pubblico, e anche se dovesse essere un pubblico minoritario, la democrazia è quella che difende appunto le minoranze e coloro i quali appunto hanno magari un sapore di, insomma, un gusto verso cose che possono essere considerate di nicchia, hanno tutto il diritto ad averle, no? E poi appunto nel discorso generale, parlando anche con le altre associazioni di categoria, piuttosto che anche magari appunto con chi si occupa di teatro, di danza, di lirica, di qualunque campo della cultura, insomma vorremmo appunto accendere vari fuochi per ricordare appunto che non di solo pane vive l'uomo, insomma. Adesso speriamo appunto di fare altri convegni così importanti, e soprattutto insomma abbiamo fatto una riunione del direttivo un paio di giorni fa, ci stiamo sentendo le altre associazioni di categoria per studiare un'azione rispetto a questa questione del FUS, che è veramente allucinante. Senti, per aggiornarsi sul movimento c'è un riferimento internet? Allora, in questo momento c'è un sito che è www.100autori, scritto 100 come numero, 100autori.it mi pare. Sì. Però proprio in questi giorni stanno facendo il nuovo sito, che sarà ancora più ampio, perché ci sarà anche un blog, un forum aperto a tutti, e appunto la possibilità da parte di tutti di interagire e portare idee, insomma, soprattutto forza morale. Allora Anrita, in bocca al lupo sia per il film che per i 100 autori, e spero di risentirti presto. Sì, anche io spero di sentirvi presto, e poi insomma ricordiamoci sempre che la cultura è la nostra anima, quindi di essere sempre dalla parte di chi la fa, e anche insomma pretendere il nostro diritto, no? Certo. Ti ringrazio tanto. Un abbraccio. Grazie. Ciao. Ed era Anrita Ciccone, regista del film Il prossimo tuo. Andiamo avanti. Thank you. È con noi Michelangelo Messina, come ogni anno, direttore della 7ª edizione dell'Ischia Film Festival dal 5 all'11 luglio. Ben trovato. Buongiorno a tutti. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Siamo qui ad Ischia, dove c'è un caldo torrido per il momento, e ci auguriamo che questo caldo ci sia anche per tutta la settimana del festival, che breve sta per iniziare. Oh, cosa ci offrirà il festival quest'anno? Beh, la 7ª edizione, devo dire, come per le precedenti, è ricca di proiezioni, sì, che diciamo è il tema principale del nostro festival. Sì. Si è dimenticato un po' che i festival dovrebbero servire soprattutto a proiettare opere, soprattutto sì, quelle inedite. Sì. 70 proiezioni, di cui 19 anteprima. Apriamo con un film inedito, Villa Amalia, l'ultimo lavoro di Benoît Jacquot con Isabelle Huppert, in parte girato anche ad Ischia, ecco perché è il film di apertura, ma avremo sì, grandi blockbuster che vanno da Australia a Angeli e Demoni, chiaramente sempre film che hanno evidenziato il rapporto con il territorio, a tantissime opere inedite che provengono da 33 paesi nel mondo. Ecco, la caratteristica è proprio dicevi l'interazione col territorio delle pellicole che avete scelto, e che poi è il senso del festival. Sì, la location, questo termine che prima era per gli addetti ai lavori e da 7 anni a questa parte ormai è nell'uso comune, il termine per sensibilizzare a quanto sia importante soprattutto il rapporto con il territorio e quanto esso sia evidenziato attraverso l'audiovisivo, che può diventare addirittura strumento di promozione, diciamo, dello stesso territorio. E anche di posti di lavoro, tra l'altro. Sì, perché con lo sviluppo del cineturismo, ovvero la visita di questi luoghi, dove già è stato applicato questo sistema, parlo degli Stati Uniti, insomma dell'Inghilterra, dell'Australia, insomma dove già da tempo insomma si spinge sotto questo aspetto, sta dando e ha dato grandi risultati comunque economici. Noi ci auguriamo che anche questo possa svilupparsi di più in Italia, che con le sue 1500 location può offrire ben ottimi tour. Sì, sì. Allora, per quanto riguarda gli ospiti, chi ci sarà, Michelangelo? Gli ospiti quest'anno avremo il Chuck di Corallo alla carriera, Abel Ferrara, il regista newyorkese che ci raggiungerà direttamente dagli Stati Uniti. Ci sarà il grande Mario Monicelli in compagnia di Paolo Villaggio, ci sarà Edoardo Winsper e Angela Finocchiaro, ci sarà Lorenzo Balducci, attendiamo ancora qualche altra conferma dell'ultimo momento, il chairman d'apertura e il premio Oscar Sir Ken Adam, e tanti altri che comunque faranno parte di questa 7ª edizione. Bene. Ne approfitto per citare anche Carlotta Ercolino, che è la presidente di giuria insieme a Francesco Patierno, il regista, e a Andrea Seicher, che è un produttore tedesco che l'anno scorso abbiamo avuto con un film in concorso e quest'anno invece ha voluto rimanere in giuria insieme anche al giornalista Pontigia. Quindi ci sarà modo di incontrare, interagire con registi, produttori, eccetera eccetera, insomma, interessante. Sì, anche perché avremo un paio di giorni dedicati ai convegni, sia quello nazionale sul cineturismo e quello sul product and location placement, che quest'anno giunge alla sua 2ª edizione. Ogni sera ci sono degli incontri con gli ospiti in cartellone prima della proiezione del film e il pubblico, per poi procedere alla proiezione dei film. Allora, in chiusura ti chiedo, per il programma c'è un sito di riferimento? Sì, il programma è già sul sito, il sito è www.ischiafilmfestival.com o .it, come preferiscono gli ascoltatori, dove c'è tutto il programma con tutte le opere in concorso, gli avvenimenti e la serata di conclusione che si svolgerà l'11 luglio nel parco del Grand Hotel Miramare Castello, che è la nostra sede centrale del festival. Quest'anno voglio ricordare solo che l'apertura la faremo in un luogo strategico per Ischia, ovvero Villa Marcovati, questa palazzo scuopolo del Cinquecento, una torre a strapiombo sul mare che ha ospitato il set di Ripley, e infatti noi partiremo da questo set praticamente per inaugurare questa 7ª edizione. Michelangelo, in bocca al lupo e a risentirci. E che crepi, grazie a tutti quanti di nuovo. Ciao. Siamo con Giovanni Massa, direttore della quarta edizione di Sole e Luna, festival internazionale di documentari sul Mediterraneo e l'Islam a Palermo dal 6 al 12 luglio. Ben trovato. Grazie a voi. Tutto bene? Tutto bene, sì, il festival si appresta a partire lunedì. Siamo abbastanza contenti del programma che abbiamo quest'anno, che è un programma molto nutrito. Come forse sapete, io per il primo anno sono direttore artistico di questo festival, sì. Cosa di cui sono molto lieto, perché naturalmente è un festival che si svolge nella mia città, Palermo, e che ha una notevole importanza perché dedica Palermo. Palermo è diventata una città che è particolarmente attenta sia al cinema in generale che al cinema documentario in particolare. Palermo e la Sicilia si stanno ponendo come uno dei luoghi centrali per questo tipo di produzioni. Sì. Allora, volevo chiederti, visto che si tratta comunque della prima edizione da te diretta, quali sono i tratti di continuità e quali le novità che hai apportato? Allora, guarda, la continuità è abbastanza, cioè c'è molta continuità con il passato sostanzialmente, perché il festival aveva una sua identità molto forte, che era, sì, questo appunto di dedicarsi ai documentari sul Mediterraneo e l'Islam. Per quanto riguarda la novità complessivamente, che non è dovuta soltanto alla mia direzione ma anche alla capacità e all'ideazione della promotrice del festival, che è Lucia Gotti Venturato, è il fatto che questo festival è cresciuto molto e che quest'anno presenta delle, non soltanto la rassegna in concorso, ma anche altre attività di grosso rilievo, come una mostra che mette a confronto un grande artista americano di land art come James Turrell e un fotografo italiano come Alessandro Belgioioso, e come la parallela rassegna di film di Christopher Nupen, che è un regista inglese che si è dedicato nel corso della sua vita soprattutto ai documentari sui grandi musicisti classici contemporanei. Quindi diciamo c'è una continuità col passato e c'è anche una grande voglia naturalmente di crescere, di andare avanti, di fare sempre meglio. Per focalizzarci sui lavori, da quali nazioni arrivano, quante opere saranno visibili? Allora, al festival in concorso abbiamo 24 opere, sì, arrivano da una decina di paesi. Velocemente li elenco da est a ovest, sì: Israele, Palestina, Siria, Libano, Germania, Slovacchia, Belgio, Francia, Spagna, Egitto. Naturalmente c'è una grossa presenza di film italiani, nel senso ci sono, sì, parecchi film italiani, a dimostrazione del fatto che negli ultimi anni il documentario italiano è cresciuto, anche se non dal punto di vista della produzione, cioè dei soldi a disposizione, però è cresciuto molto dal punto di vista dell'interesse internazionale che dedica ai suoi temi e anche all'attenzione per il linguaggio. Allora, al di là dell'area geografica si parla di Islam, volevo chiederti, di Mediterraneo. Mediterraneo. Sì. Volevo chiederti, le tematiche delle opere, hai notato qualche tratto in comune, e su cosa ti sei soffermato nella scelta, allora, del materiale? Sì, esistono delle tematiche forti che attraversano gran parte dei documentari, non solo di quelli selezionati, ma, sì, anche naturalmente di quelli che purtroppo non è stato possibile selezionare perché ce ne sono arrivati tantissimi. E le tematiche di base sono ovviamente le guerre. Le guerre in generale sono una tematica molto forte e molto sentita, soprattutto ovviamente in certe aree geografiche. Sì. Un'altra tematica molto forte è l'emigrazione. Sì. È un tratto che contraddistingue, secondo me, da est a ovest molte produzioni è la condizione femminile. Sì. Sulla condizione femminile, per esempio, noi vediamo una come dire, un anelito verso un avanzamento della condizione femminile che attraversa veramente tutte le culture in maniera del tutto trasversale, se sì, così si può dire. Sì. Senti, per quanto riguarda le produzioni di questi paesi, stai notando un fermento? Com'è la situazione? Sì, il fermento, allora, è, ovviamente nei paesi ci sono molte differenze, sì. Nel senso che il fermento autoriale attraversa tutte le aree geografiche. Sì. Il fermento produttivo è un fatto diverso, perché ci sono paesi come per esempio Israele che hanno delle realtà produttive molto ben radicate, sono paesi che sono molto attenti alle loro alle produzioni documentarie. Sì. Altri che hanno maggiori difficoltà per ovvi motivi, sia motivi economici sia in alcuni casi per problemi di scarsa attenzione al documentario. Voglio dire, l'Italia è uno di questi. L'Italia non è che sia un paese che abbia in cui ci sia una grandissima sì. attenzione da parte soprattutto delle televisioni, anzi adesso sì. la situazione va un po' meglio perché ci sono le televisioni satellitari, perché ci sono alcuni programmi meritori che vengono anche alla RAI, vengono fatti sui documentari, però certo noi rispetto ad altri paesi tra virgolette occidentali siamo messi peggio, poi per contro siamo messi meglio di altri paesi. Naturalmente devo dire che è una situazione che meriterebbe a mio avviso una particolare attenzione, un particolare approfondimento, quello di vedere qual è concretamente paese per paese la situazione produttiva. Sì. In Francia per esempio, anche in Spagna le produzioni avvengono sono molte, sono anche di molto libere, diciamo, dal punto di vista creativo. Sì. Oh, Giovanni, in riferimento proprio all'attenzione verso il documentario, volevo chiederti in chiusura, oltre alla vetrina del festival, vi state attivando anche per una sorta di distribuzione di questi lavori? State seguendo anche questa eventualità? Sì, intanto devo dirti che per esempio proprio quest'anno sarà presente al festival una persona che proprio si occupa di distribuzione di documentari in Italia, che sarebbe la Doc Video. Sì. Che verrà proprio un rappresentante a vedere se ci sono opere che possano a loro interessare. È un aspetto che a me personalmente interessa molto e che spero piano piano in futuro di sviluppare in maniera sempre più approfondita, dettagliata, naturalmente invitando anche altre realtà distributive. Penso che saranno presenti, anche se in questo momento non lo posso del tutto confermare, però credo che saranno presenti anche al festival alcune televisioni dei paesi arabi che possono essere, ci sono delle realtà molto interessanti lì che da questo punto di vista. Bene Giovanni, allora per consultare il programma ci puoi dare un sito? Allora, il sito è un poco complicato da dire ed è www.soleluna.unpontetraleculture.com. Sì, lo so, è lungo, però questo è il ma significativo, è il nome dell'associazione che ci teneva ad avere appunto questa dizione, un ponte tra le culture, quindi Sole Luna, un ponte tra le culture, tutto attaccato, e lì si trova tutto il programma delle sette giornate del festival, nonché tutte le attività parallele di cui non abbiamo parlato, come i concerti, le presentazioni della produzione di Sole Luna, un ponte tra le culture, eccetera, eccetera. Bene, allora un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie mille, crepi il lupo. A presto. Arrivederci, grazie. Giovanni Massa, direttore della quarta edizione di Sole e Luna, Festival Internazionale di Documentari sul Mediterraneo e l'Islam a Palermo dal 6 al 12 luglio. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa 87.900, la modulazione di frequenza dal 1977, senza padrini politici, senza padroni economici. Continuiamo la nostra, il nostro viaggio tra i festival, per poi parlare anche di uscite in sala. Siamo in collegamento con Giancarlo Zappoli, direttore della 60ª edizione Film Video, mostra internazionale del cortometraggio a Montecatini Terme dall'8 all'11 luglio. Ben trovato. Ben trovati voi. Allora, ci siamo quasi. Sì, direi. Settimana prossima è un'edizione importante, insomma, siamo a 60. Sì, sì, io poi nella introduzione al catalogo ho messo che la 60ª era 59 più una, nel senso che non bisogna pensare che poi la 60ª ci chissà che cosa fa, e l'anno prima e l'anno prossimo tutte devono essere fatte con lo stesso impegno, poi certo i numeri tondi fanno epoca. Sì. Allora, un formato, quello del cortometraggio, a cui insieme al documentario riserviamo sempre una particolare attenzione, ma che insomma stenta ad avere una visibilità. Stenta in Italia ad avere una visibilità. In Italia, io una volta ho condotto un incontro con Tabucchi, reduce dal successo editoriale di Sostiene Pereira, sì, il quale mi diceva, era un incontro pubblico, diceva: io comunque col successo di vendite che ho, con l'editore faccio fatica a convincerlo a vendere, a pubblicare una mia raccolta di racconti. Perché non c'è da noi la mentalità, la disponibilità, diciamo, anche verso il racconto. In altre realtà questa c'è, e lo stesso vale per lungometraggio e cortometraggio, cioè si traducono le cose. Sì, sì. Che poi spesso l'errore è considerarlo un trampolino di lancio per un film, per un lungometraggio, quando invece è una cosa a sé stante. È una cosa a sé stante. Allora, c'è un'attribuzione che non è certa. C'è chi dice Chekhov, c'è chi dice Tolstoi, però teniamo la buona. Uno dei grandi russi si dice che un giorno scrisse una lettera di 5 pagine a un amico. Sì. E la concluse così: scusami se ti ho scritto questa lunga lettera, ma non avevo il tempo per scrivertene una corta. Perché cosa voleva dire? Cosa lucidissima, secondo me. Sì, sì. Avrei dovuto concentrare il pensiero, sapere precisamente che cosa ti volevo dire, sì. E allora tu avevi scritto una pagina. Eh sì, necessita di una capacità di sintesi, non è, sì, non è data, insomma. E poi non è mica vero che i cortisti sono delle persone che stanno lì nel recinto in attesa di poter correre all'aperto, esatto, per il lungometraggio. Esatto. Ci sono anche quelli, senza dubbio. Sì, però magari vogliono solo esprimersi così. Ma certo, ma basta vedere, a parte che è un altro territorio, ma la pubblicità è più corta del corto. Ma voglio dire, ci sono dei signori che fanno i pubblicitari per tutta la vita, non è che aspettano di fare chissà che cosa d'altro. E chi si esprime in quel modo, come chi si esprime col racconto e chi col romanzo. Allora, raccontaci un po' di questa edizione tonda. L'edizione tonda mantiene le caratteristiche delle precedenti, sì, cioè concorso internazionale suddiviso in animazione, documentario, fiction e corti sperimentali, perché gli sperimentatori esistono ancora. Sì. E poi, vabbè, a parte il fatto che va sottolineato che è la 60ª, il che vuol dire che ci sono dei signori che 60 anni fa, fuori da tutte le mode, avevano pensato di poter fare una manifestazione legata al cortometraggio, che inizialmente era un cortometraggio italiano, sì, e che poi si è aperto al mondo, diciamo così. E quindi sono diventati anche un punto di riferimento. Ma certo, perché ti accorgi che in realtà poi io credo che i festival vanno fatti, però posso sbagliare anche, ma cioè non è che se tu ricevi film da 90 nazioni devi mettere 90 film di 90 nazioni, compresa la Papuasia, che te ne ha mandato uno ed era anche brutto. Non è quella l'internazionalità, sì. Però l'internazionalità è che anche in Papuasia sapevano che il tuo festival esisteva e la prossima volta te ne manderanno uno più bello. Cioè, il ricevere circa 900 film da tutto il mondo vuol dire che comunque si sa chi sei e c'è l'interesse, perché se no non te li mandano, detta pari pari. E dall'altra parte c'è la voglio sottolinearlo, perché quest'anno la FEDIC, che è stata sempre il promotore del festival, ha voluto sottolinearlo con un convegno in cui sì, si celebrano i 60 anni, ma soprattutto si celebra il fatto che il corto è anche uno spazio di impegno. Basti dire che la presenza femminile è fortunatamente decisamente elevata, ma non è perché siamo lì a fare le quote rosa, cioè a contare col bilancino, tot, certo, devono essere donne, certo, no, certo. Perché ci sono, e nel corto fortunatamente si possono esprimere, nel lungo, ahimè, no, ancora molto no. Ma molto meno. Sì. Oh, mi dicevi una mole enorme, 900 opere, sì. E come hai effettuato, su quali basi hai effettuato questa scelta? E poi ti chiedo anche se ci sono filoni, tematiche ricorrenti. Allora, la scelta è, non pensare di essere l'ombelico del mondo, cioè non esiste il pubblico che corrisponde con me. Sì. Cioè, esistono i pubblici ai quali dare il meglio di quello che è arrivato, di quello che si è andati a cercare. Due, sì. Selezionare insieme anche a esperti del settore, tipo Massimo Maisetti, che si occupa dell'animazione, andare a cercare giovani che hanno un occhio particolare, tipo lo sperimentale con Ottavia Guerriero, che è meno di 25 anni, che guarda in quella direzione. Quando le ho detto mi piacerebbe che tu lavorassi, ho detto perché mi sembri abbastanza seria, abbastanza schizzata per poter fare questo tipo di selezione. Per gli sperimentali ci vuole. Sì. Poi, criterio base, lo diceva Gabber in una canzone, occhio, cuore, cervello. Ti devono colpire esteticamente, cioè devono essere fatti bene da un punto di vista tecnico, devono toccarti anche per magari darti fastidio, non semplicemente per prenderti per il verso del pelo, e poi farti venire la voglia di ripensarci dopo. Sì, se no è però, se si crea questo cortocircuito, allora ci siamo. I filoni sì, nascono casualmente di anno in anno, cioè se voglio fare una cosa a tema la faccio, come l'ho fatta per due anni sul cinema europeo, sui migranti e sul rapporto uomo-città. Se no, vengono fuori, sì, poi, perché ogni anno è un po' come il vino, no? Cioè, ci sono certe tipologie di vino che vengono maggiormente alla luce, ma non c'è un filone vero e proprio. Arriviamo anche a un altro punto che mi interessa sempre trattare, ossia quello della visibilità, di cui parlavamo anche all'inizio. Il cortometraggio all'estero ha più facilità, qui in Italia, soprattutto grazie alla rete, penso che sia possibile visionarli. E ti chiedo in che direzione stiamo andando e quali sviluppi potrebbero esserci in futuro. Ma in Italia, vabbè, a parte il fatto che c'è una carenza oggettiva di scuole, anche centro sperimentale, scuole di Milano, altre scuole, ma insomma non sono tantissime come sono invece all'estero. Questo conta, perché è vero che la scuola, c'è chi dice ah no, mi sono formato da me, è vero, però se c'è anche la scuola che ti supporta, almeno anche dal punto di vista tecnico. Sì. E poi, non lo so, io ho un dubbio che la, tra virgolette, democratizzazione del mezzo, cioè il fatto che se io mi compro una digitale non mi distruggo proprio il bilancio familiare e poi posso montare sul computer, da un lato abbia allargato la possibilità, e questo è fondamentale, dall'altro abbia spinto, soprattutto in Italia, a dire, vabbè, io ho una cosa da dire e la dico per 28 minuti. Quindi sono autore. Peccato che i primi 2,8 minuti avevano già detto. E questo perché? Perché manca dietro un training di qualcun altro che ti guardi da fuori e che ti dica ok, sei già arrivato, fermati. Questo senza dubbio. Una cosa invece importante che vorrei sottolineare è che noi dedichiamo invece un pomeriggio, questo sì tematico, al cinema realizzato nelle carceri e in particolare nelle carceri minorili. Sì. Ci sarà anche uno spazio per gli adulti. Perché? Anche perché premiamo Davide Ferrario. per cui tutta colpa di Giuda. Sì. Ferrari è davvero un indipendente, per cui sul sessantesimo ci voleva un regista che rispecchiasse esattamente lo spirito di questo festival. Sì. E vedi caso poi ha girato questa cosa alle Vallette con dei detenuti veri. Dall'altra parte faceva delle esperienze molto più piccole che sono legate ai carceri minorili, dove teatro, musica e ripresa cinematografica si fondono insieme e aiutano a quella famosa reinserimento nella società che spesso rimane come parola e non come fatto. Oh, Giancarlo, volevo chiederti anche, nelle sale, nella distribuzione, si sono avuti casi di film abbinati a cortometraggi, è una cosa riproducibile? Ma secondo me lo sarebbe, lo potrebbe essere, lo sarà sempre di più secondo me grazie al circuito di microcinema, a questo circuito, ai circuiti digitali, a quelli che pigliano da satellite, eccetera. Perché allora sì, sarà anche più facile proprio fisicamente sì. proiettare. Perché se no c'è sempre la sala che ti dice sì, io ho il 35. E questo che è in DVD, in Blu-ray, eccetera, come lo proietto? E di nuovo diventa poi anche un alibi, sia chiaro. Sì, però sì. È anche un vincolo tecnico. Anche perché proiettare male un corto è meglio non proiettarlo perché sono convinci che siano delle cose fatte in casa e invece non è vero. Senti, per dare un'occhiata al programma su internet, per dare sul sito di Filmvideo Montecatini, entrate su Google e digitate Filmvideo Montecatini, viene fuori tutto il programma che è già pronto e che occuperà i giorni dall'8 all'11 a Montecatini. Bene, allora in bocca al lupo e un abbraccio. Grazie. E a presto. Grazie, buon lavoro a voi. ciao Giancarlo. Ciao. Giancarlo Zappoli, direttore della 60ª edizione di Film Video, mostra internazionale del cortometraggio a Montecatini Terme dall'8 all'11 luglio. Ci spostiamo in Umbria ora. Un po' di pazienza. Carissima Vanessa, ci sei? Ciao Federico, sì, ci sono! Allora, Vanessa Strizzi, direttrice della 13ª edizione dell'Umbria Film Festival a Montone dall'8 al 12 luglio, dici tutto. Allora, apriamo il festival con il quarto film di Lone Scherfig, la regista italiana per principianti, ed è un'anteprima assoluta. Sì. È un film scritto da Nick Corby che ha preso il premio del pubblico al Sundance. Sì. Poi ci sarà Nicola Giuliano che riceverà le chiavi della città e Davide Ferrario anche però il sabato. Sì. E, poi abbiamo Wendy e Lucy che era anche al Torino Film Festival, è il film della regista americana Kelly Richard, bello, una storia on the road. E poi vabbè, la chicca è Wallace & Gromit, il nuovo episodio, un cortometraggio di 30 minuti. Bene, bene, bene. Allora, io ho avuto la fortuna di essere lì la scorsa edizione. Sì, ritorna. E allora ti chiedo, in questo è il 13° anno, come si è evoluto, come si è sviluppato il festival? Noi cerchiamo sempre, abbiamo sempre la possibilità di fare anteprime internazionali, per sì. cui dei film stranieri che poi alla fine non riescono ad uscire in sala, come quest'anno appunto Wendy e Lucy, Snow di Aida Becic, e poi di solito c'è un solo film italiano che secondo noi è stato quello che è stato un po' più rappresentativo dell'anno. Sì. E in questo caso abbiamo scelto il film di Ferrario perché era un musical, perché era una cosa un po' diversa da tutto quello che si è visto in giro. Sì. E poi ci stanno i corti per bambini, insomma siamo affezionati degli Arvan e quest'anno abbiamo avuto la possibilità di fare appunto quest'anteprima di questo corto. Oh, per quanto riguarda la scelta dei film, la tua proposta, questo si deve anche al fatto che tu hai la fortuna di poter visionare dei film che non arrivano qui in Italia. Sì. E quindi ti chiedo, che idea ti sei fatta vedendo cose in giro, lavori che poi qui non si vedranno mai? guarda, secondo me ci sono delle cose in giro molto belle, non si vedono, non riesco a capire per quale motivo, perché escono dei film e non ne escono degli altri. Ad esempio, noi un anno facevamo un film iraniano bellissimo, che poi non è mai uscito in sala, infatti il regista poi quest'anno ha preso un premio a Cannes. Non riesco a capire le logiche un po' della distribuzione, perché appunto hanno tutto il diritto di uscire rispetto ad altre cose. Insomma, noi quest'anno ne ho visti parecchi di film, la scelta è stata dura, perché scegliere un film piuttosto che un altro ti mette sempre un po' in imbarazzo, però poi vabbè, lo devi fare pensando pure al pubblico che ti viene a vedere. Certo. Senti, per quanto riguarda gli ospiti, ne hai citato qualcuno, chi ci sarà di altri? Viene Puntolone, questa regista danese, poi viene Ferrario e Nicola Giuliano quest'anno, insomma devo dire siamo più sugli italiani quest'anno. Senti, per quanto riguarda il pubblico, che percezioni hai avuto nel corso di questi anni? Come si è sviluppato il rapporto con il pubblico? Guarda, devo dire, l'entrata è gratuita, però di solito il pubblico è molto selezionato, perché vengono da tutta la regione e proprio ci sono degli affezionati addirittura che prendono le ferie per venire durante il periodo del festival per venire a vedere i film. Sì. Devo dire, questo fa molto piacere. È tutta gente che ama il cinema e che è sempre contenta di vedere delle cose diverse. Senti, la sala di proiezione è la piazza del centro storico, no? Sì, è la piazza del centro storico, a parte la prima sera che invece saremo su alla Rocca, però sì, è sempre al centro di Montone. Che è un piccolo gioiellino medievale. Bellissimo, sì, esatto, conservatissimo proprio. Senti, il programma è già online? Il programma è online da oggi, sì, per cui chi vuole può andare su umbriafilmfestival.com e andare a vedere. Vanessa, chissà che non riesca a fare un salto. Sì, ti prego, ritorna. Va bene, ti aspettiamo. In bocca al lupo e a Grazie, presto. Grazie, Crevi, ciao. Ciao, Crevi, ciao, un abbraccio, ciao, ciao, ciao. E questa era Vanessa Strizzi, direttrice della 13ª edizione dell'Umbria Film Festival a Montone, provincia di Perugia, dall'8 al 12 luglio. E ora un ritorno piacevole, un attimo che dovremmo sentire una nostra vecchia conoscenza. Senti un po' chi c'è. Ciao. Il nostro Marco Catola. Sì, come al solito a volte ritorna. L'ultimo immortale. Sì, Highlander, pensavate. E invece a volte ritornano. Sì, quando così hanno visto un festival oppure hanno dei film da proporre, delle iniziative da proporre, ritorna. Sì, delle vere e proprie marchette. Allora, no, sto scherzando, assolutamente no. No, veramente, perché più che altro... No, ma hai scritto una mail in cui avevi tante cose da dire. Sì, ero proprio felice. Eri proprio felice. Però devo dire che sono un po' mutevole, cioè nel senso, già oggi sono un po' più... Ieri ero proprio esaltato. Sì, ti sei un po' mosciato. Già oggi sto così, un po' down. Vogliamo cominciare? Sì, no, vabbè, io vi voglio... Io ti incoraggio, dai. Sì, bravo. No, vabbè, io volevo soltanto dire a tutti i nostri ascoltatori che c'è la possibilità di recuperare alcuni film che sono stati presentati al Festival di Pesaro, alla Mostra Internazionale del Cinema, che ho seguito in varie vesti, diciamo, non dico in quali, non mi interessa, per me le mie nuove funzioni non interessano a nessuno, comunque, no, ho seguito in varie vesti e ho potuto vedere molti film, siccome il livello era veramente alto, perché si tratta, come non so, come tutti sapranno, insomma, della 45ª edizione, quindi è un festival veramente che c'è da tanto, insomma, non ai livelli di Venezia, ma insomma ci siamo quasi. che è coordinato dal direttore artistico Giovanni Spagnoletti, che è un professore dell'università, autore, scrittore che conoscono tutti, e da Bruno Torri, insomma. E Spagnoletti, tra l'altro, abbiamo avuto 2 settimane fa qui che per la presentazione, ne abbiamo parlato. È un mito, è simpaticissimo, una persona veramente squisita, anche se anche lui un po' lunatico, però molto veramente molto bravo, soprattutto nella selezione dei film. Infatti la selezione del concorso erano tutti film internazionali di ogni paese del mondo, c'era anche un italiano che poi oltretutto ha vinto il primo premio, insomma, della mostra internazionale del cinema, che è appunto La Pivellina, che è un film austriaco italiano. La Pivellina, però, ricordo che il titolo con cui verrà distribuito in Italia, perché grazie a Dio avrà una distribuzione a partire da credo settembre-ottobre, comunque tra settembre e novembre, insomma, speriamo, che non è ancora domani. Che appunto ha vinto il primo premio, è piaciuto molto alla giuria, è piaciuto molto al pubblico. Ecco, del pubblico che mi dici rispetto a Pesaro, com'è andata? Guarda, allora, il discorso è che questo festival è molto seguito soprattutto dagli addetti ai lavori, però loro presentano i film ogni sera in piazza, nella bellissima piazza del Popolo di Pesaro, quindi all'aperto con uno schermo gigantesco, ed è sempre pieno, nel senso il pubblico segue molto, piace molto questo festival, ma anche perché Pesaro è una città di mare che vive soprattutto l'estate, e quindi è favorevole proprio a questo tipo di iniziative, tant'è che poi c'è anche il Rossini Festival sull'opera lirica. Insomma, è una città molto viva dal punto di vista culturale, e questo festival io è la prima volta che ho seguito appunto, e era pieno di gente la sera. Poi bellissimo comunque, perché io, siccome muoio di caldo al fresco, stavo benissimo, tutti coperti, io stavo da Dio in maglietta, e poi soprattutto all'aperto veramente vedere i film lo trovo molto molto bello, molto divertente. E vi volevo infatti dire che però purtroppo i primi 2 giorni del festival c'è stato brutto tempo, e quindi non si sono potute fare questo cinema in piazza, ma si è dovuto fare all'interno. Dopodiché è tornato il bel tempo e sono stati proiettati in piazza. E infatti la cosa paradossale è che il primo film che ha aperto il festival, che è proprio La Pivellina, Non ancora domani, visto poi al chiuso, diciamo, non in open air, praticamente ha vinto poi il festival. E questo film aveva già vinto il label, il premio label, insomma, al Festival di Cannes, e aveva avuto già un buon successo di critica, e speriamo appunto che anche in Italia riesca ad acquisire, insomma, il giusto spazio nel panorama cinematografico. Il film è un film, siccome i registi sono 2, Tizzakov e Rainer Frimmel, e sono altoatesini, in realtà, infatti la produzione è austriaco-italiana, tutti e due non parlano bene, sono italiani ma non parlano bene, è infatti una cosa molto strana, però insomma hanno veramente un grande talento, vengono dal documentario, e questo film risente senza dubbio di una impostazione, diciamo, neorealistica, o comunque, se vogliamo, appunto proprio del documentario. Infatti c'è una sorta di pedinamento come voleva Zavattini dei vari personaggi, anche, diciamo, è molto bello soprattutto perché segue una storia di fiction, però in realtà poi ci mostra quella che è la vita della realtà circense di San Basilio a Roma. Per questo credo che sia stato questo l'elemento che abbia poi appunto influito sulla vittoria della giuria, che ricordo erano Roberto Nepoti, l'attrice Valentina Cervi e il regista Luca Guadagnino. E chiaramente anche il pubblico è stato d'accordo, perché ha comunque riscosso un grandissimo successo anche proprio durante le giornate, perché erano presenti gli attori, il cast e i registi. E se effettivamente sì, il mio preferito era un altro, però vabbè, io non faccio testo, perché il mio preferito era El Árbol di Ascona, che non è piaciuto a nessuno. A me invece era piaciuto molto, però sempre perché aveva questa direzione un po' zavattiniana di pedinamento del personaggio, che mi piace molto. L'ho scoperto che negli ultimi tempi mi piace molto, questo regista Ascona è molto giovane, era il montatore dei film di Ray Gaddas, che è quello di Japon, di Battaglia nel cielo, insomma, un film, un regista messicano molto importante. E no, vabbè, quindi però l'unico problema è che siccome c'è questo, la presentazione di questi film si fa Pesaro a Roma, che viene inserita nella, nell'arena di Piazza Vittorio, quindi chi fosse a Roma appunto e potesse presenziare li consiglierei di andare, perché a partire da ieri sera purtroppo, in cui c'era la proiezione sia di La Pivellina sia di Fixer, che è l'altro film in concorso che secondo me era bellissimo, un altro stupendo film che è di Ian Holds, che riprende questo, infatti purtroppo ve lo siete persi, però io spero che qualche distributore se ne occupi, insomma, e lo faccia uscire anche in Italia, perché è un film molto importante, perché riguarda, diciamo, il rapimento di Daniele Mastrogiacomo. Non so se vi ricordate che era stato rapito appunto in Afghanistan insieme al suo Fixer. Il Fixer è in realtà una sorta di intermediario, in genere un giornalista, comunque che un interprete che fa da mediatore con i personaggi che magari si vogliono intervistare in territori però di guerra in cui è difficile raggiungerli, quindi che mettono a repentaglio la propria vita per riuscire a fare ai giornalisti internazionali occidentali il servizio. E infatti nessuno lo sa, cioè nessuno lo sa, lo sappiamo, però nessuno poi ha inciso, ha fatto presente molto questa notizia, che mentre Daniele Mastrogiacomo poi alla fine è stato rilasciato dai talebani, questo il suo Fixer invece è stato ammazzato. Quindi questo documentario va appunto a riprendere proprio la vita, perché siccome questo Fixer, che si chiama Ijmal Naqshbandi, che peraltro aveva solo 24 anni, aveva già fatto altri servizi con altri giornalisti americani prima del suo rapimento, e quindi questo documentario mette insieme sia ritagli veri in cui c'è Naqshbandi, che appunto viene intervistato e fa da mediatore ad altri giornalisti, sia il dopo, con le interviste ai genitori, alla famiglia agli amici. E quindi questo purtroppo ve lo siete perso, però vi potete recuperare a partire da stasera un altro film, che poi devo dire che quest'anno il Festival di Pesaro stranamente è stato proprio all'insegna del cinema italiano, perché un altro premio è stato vinto dal film che potete recuperare stasera a Piazza Vittorio, che è La fisica dell'acqua di Felice Farina, che ha vinto il premio del pubblico, appunto il cinema in piazza, è quello che nel cinema dopo puoi votare, appunto viene tenuto, il pubblico in piazza viene tenuto a votare, e ha attribuito il premio del pubblico, insomma il cinema in piazza, a questo film, che è con Claudia Mendola, Paola Cortellesi, Stefano Dionisi e dei ragazzini piccoli, perché i protagonisti sono appunto dei bambini. E il film è ha riscosso molto successo, e diciamo che speriamo che ne abbia anche in seguito, perché comunque rilancia un regista che ha avuto un po' di problemi proprio con la sua casa di distribuzione rispetto a questo film. Infatti il film è del 2005 ed esce purtroppo cioè è stato presentato soltanto oggi, perché la casa di produzione era fallita. Quindi auguriamo tanto successo a questo film. Il film è un thriller psicologico, un film di genere, quindi è molto particolare, diciamo, nel nostro panorama cinematografico, che è abbastanza asfittico da questo punto di vista, quindi lo consiglio. Oltretutto è un film a misura di bambino, quindi ha un punto di vista molto interessante, e ricorda un po', diciamo, Il sesto senso, però non è un film horror, però insomma è un film godibile, interessante, che poi è piuttosto coraggioso, appunto perché si insinua nell'ambito del cinema di genere, che in Italia non c'è quasi più. Vi consiglio poi anche domani sera, il 3 luglio, i film israeliani, perché quest'anno il Festival di Pesaro ha dato molto c'era una sezione, sì, cioè infatti ha fatto una sezione sul cinema israeliano contemporaneo, che devo dire non mi aspettavo fosse così, insomma non lo conoscevo assolutamente, quindi vi consiglio di recuperarli. Troviamo infatti domani sera Avanim, che è Stones, che è forse uno dei migliori film di Najari, a cui è stato dedicato proprio un focus speciale qui al festival, che è un regista francese però che ha girato film soltanto a New York e in Israele, quindi questo è infatti il focus speciale del Festival di Pesaro, era dedicato proprio alla sua produzione israeliana, e questo di questa produzione fa parte Avanim, che significa pietre, ed è infatti un film abbastanza duro, perché parla appunto di, come metafora prende le pietre, che le pietre sono quelle su cui comunque viene costruito tutto, sia la casa, sia i rapporti personali, sia però anche il muro che poi appunto divide Israele. Insomma, è un film che consiglio soprattutto perché parte da un punto di vista femminile, da un punto di vista personale, però poi, come in tutti i film israeliani solitamente, dà un'immagine anche di quella che è la situazione sociopolitica del paese. E a seguire, sempre domani sera, c'è Close to Home, che è un altro film israeliano di due registe donne, che parlano delle donne all'interno dell'esercito, perché come sapete, insomma, anche l'apparato femminile è molto presente nell'esercito israeliano. E poi soprattutto L'ultimo giorno, che è il 4 luglio, vi consiglio invece altri due film sempre nell'ambito del cinema israeliano, che sono Rachel e Frozen Days. Rachel è molto bello perché è un documentario, è di Simone Bitton, che è la regista di Lemur, il muro, che era già stato presentato a Cannes e che era uscito anche in Italia. E soprattutto ve lo consiglio perché parla praticamente di Rachel Corrie, che è una pacifista americana, sì, che era militante in un'organizzazione internazionale e appunto si era recata sulla striscia di Gaza proprio a difendere le case dei palestinesi che gli israeliani stavano appunto abbattendo per costruire sempre questo, sì, muro. E pensa, però, che a Rachel l'abbiamo... Ne avete già parlato? Abbiamo dedicato uno spettacolo, cioè, esiste uno spettacolo teatrale che abbiamo riproposto anche qui in radio. Ah, perfetto, mm-hmm. Che poi quindi è stata uccisa da un bulldozer, sì, israeliano, sì, e quindi, sì, questo documentario riprende proprio la sua storia dal punto di vista delle persone che gravitavano intorno a Rachel, perché praticamente il caso è stato archiviato come incidente, in realtà ci sono molti lati oscuri che farebbero pensare proprio ad un omicidio. Sì. E l'ultimo appunto film del 4 luglio è Frozen Days, e questo è anche un altro interessantissimo film di questo regista, giovane regista israeliano, che si chiama Danny Lerner, che purtroppo non credo che uscirà in Italia, che comunque è anche questo qui interessante perché è l'unico film di genere, uno dei pochi insomma film di genere nella cinematografia israeliana, perché riprende appunto L'inquilino del terzo piano di Roman Polanski, chiaramente attuandolo al giorno d'oggi in Israele con la situazione politica che c'è, quindi con gli attentati terroristici. Okay. E questo è quanto. E vi volevo soltanto poi segnalare che a Festival di Pesaro ha vinto anche un'altra italiana, che sono felice appunto di nominare velocemente, perché è del mio stesso paese, che è Viareggio, che come sappiamo in questi giorni sta vivendo una vera e propria catastrofe. E la regista è Barbara Cupisti, che conosci anche tu benissimo per Via di Madri. Infatti questo è il suo secondo documentario e siamo felicissimi che ha vinto il premio Amnesty International, che ogni anno viene dato appunto ad un cinema di tutta la manifestazione di Pesaro che riguarda appunto i diritti umani. Bene. E il suo film è Vietato Sognare, che appunto prende due punti di vista dell'ex combattente palestinese Ali Abu Awad, che è il leader del movimento pacifista Al-Tariq, e l'ex soldato israeliano Eli Kelan, e li mette a confronto partendo poi dal punto di vista dei bambini, che appunto è vietato sognare, proprio il divieto che che rimane soltanto praticamente ai bambini, però sì, sia palestinesi che israeliani, cioè bambini. No, poi più che metterli a confronto, loro lavorano proprio insieme, perché lavorano in un'organizzazione di ex militanti, sì, sì, per e la militari, pace, sì, sì, sì, dell'associazione, sì, sì, Combatants, sì, sì, for, sì, Peace. No, no, nel senso che li mette a confronto, nel senso che da una parte si parla sia, sì, che israeliano, certo, da una parte, sì, palestinese, certo, poi per avere appunto per confluire, diciamo, in un'unica soluzione di pace, insomma. Marco, ti fermo qui. Sì, va bene, tanto no, mi bastava questo, quindi andate a recuperarli, okay, qui a Piazza Vittorio, che c'è fresco, poi c'è Fassi, vi prendete un gelato, insomma vi recuperate del buon cinema. E Marco, un abbraccio. Si riaggiorna, sì, va, sì, bene. Un abbraccio, okay, a presto, ciao, alla settimana prossima, ciao, magari. Ciao. Siamo in chiusura. L'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Con Visionari, tutte le informazioni relativa alla scaletta e sulla trasmissione sul sito della radio, sia www.ondarossa.info. Spazio adesso alla seconda società. Buon proseguimento!